rivaggio e parampara che nam pepe. E allora siamo qua per la mini pimer di oggi. Eh sì. Questa mini pimer è dunque dedicata a un'intervista che è fatta dalla nostra compagna Divia, adesso abbastanza abituata dei nostri microfoni. Un'intervista che è stata fatta in febbraio scorso. Dunque gli avevo chiesto di raccontare come si sono svolte le manifestazioni quando è successo uno stupro collettivo di una ragazza che tornava dal cinema. Questa vicenda è successo il 16 dicembre di quest'anno, cioè di 2012, e dunque Divia ci racconta questo. Volevo fare solo qualche piccole aggiornamenti, perché a un certo momento si parla, per esempio, si parla di colonie. Le colonie sono dei quartieri, e lei parla come la gente dentro i quartieri si sono messi a parlare di violenza sessuale. Poi a un certo momento parla di Take Back the Night. Penso che adesso sappiamo tutte che si tratta di manifestazioni di notte in cui le donne vogliono riprendere la notte. E poi parla anche della venuta di Eve Etzler per tutta la One Billion Rising. Questo l'abbiamo tagliato, ma lei lo accenna a un certo momento, dunque lo dico. Parla anche di Matam Sikh, il primo ministro. Questo, diciamo, che sono le cose che possiamo dire prima. E, a parte questo, che possiamo dire? Sì, di seguito a questa intervista, che comunque Olga farà la traduzione sopra, dunque proviamo a non perderci troppo tra l'inglese e l'italiano, questo non è scontato. E dopo, oggi avevamo già risentito Divia al momento delle manifestazioni per l'8 marzo, e oggi l'abbiamo risentita, dunque vi renderemo una piccola intervista che abbiamo registrato oggi, e in cui lei racconta un po' il seguito di come procedono, cioè, le lotte femministe soprattutto, e vabbè, la situazione della violenza contro le donne. Dunque la domanda è una cosa come: raccontaci le manifestazioni in cui sei stata. Hi Divia. Hi Sylvie. And I'm happy that you accept to answer about some questions, and the thing that I would like first to ask you is to speak about this fact that happened in Delhi in December and January and also February, this collective this groups of men who raped and killed one girl, and also all around the world we knew about these things. So if you want to comment in the... Yes, sure. First, I'd like to give a little bit of background information before this whole uprising happened. Sì, certo, prima do un po' di informazioni sul background, su cosa ha preceduto questa vicenda. And each was very horrible. But the saddest thing that happened was there was a lot of sexist comments. L'anno scorso, consideriamo da gennaio a marzo, c'erano qualcosa come uno stupro al giorno, tutti più orribili, uno più orribile dell'altro, e la cosa più triste che succedeva era che c'erano un sacco di commenti sessisti da parte dei poliziotti e dei politici. So the comment was like she was drinking, she was wearing the wrong clothes. Per esempio, uno dei commenti era che una donna era andata a bere un bicchiere in un posto abbastanza chic con amici. So E l'uomo ha messo qualcosa nel suo bicchiere, l'ha stuprata e poi l'ha messa nel cassonetto della Mondezza. E i commenti erano: stava bevendo, non stava al posto giusto, chi ha chiesto di frequentare quel tipo di uomini. Un altro caso è che hanno trovato il corpo di una donna morta nel sotto della stazione ferroviaria. Sono uscite molte reazioni da parte di gruppi di donne, molti scritti contro questi commenti sessisti da parte appunto di polizia e politici. Ci sono stati gruppi che si sono messi insieme per fare manifestazioni, proteste e varie altre cose. The state called Haryana, which is very backward, has the lowest sex ratio. There are no feminist groups in the. Vicino a Delhi c'è uno stato che si chiama Haryana, che è uno stato arretrato sulle questioni della sessualità, e non ci sono gruppi di femministe in tutto lo stato di Haryana. Ci sono stati qualcosa come 16 o più stupri o aggressioni contro donne Dalit. Povere. Dalit è la casta più bassa della comunità, e tutti gli stupri perpetrati da uomini di caste alte, a parte due o tre, tutti erano delle caste alte, uomini che le hanno stuprate e poi hanno anche fatto delle foto e mandato foto dai cellulari in tutto il villaggio. E un padre si è suicidato quando ha visto le foto. In many cases the women committed suicide or were killed or the village council decided that she's the one who's wrong. In molti villaggi le donne si sono suicidate o sono state uccise, o tutto il villaggio ha deciso di dire che era colpa della donna. It's because of chow mein, eating chow mein and o che era colpa di chow mein. E Jaumin è un tipo di giovani che, per quanto a noi può sembrare strano, mangiano molta pasta molto speziata. E allora piano piano negli ultimi sei mesi sono usciti molti scritti a proposito delle cose che succedono in India, il sessismo, cosa pensa la gente, come sono sempre le donne ad essere colpevoli, insomma moltissimi scritti, articoli. C'è stato anche il One Billion Rising, che è stato un momento in cui c'erano molte attività nei villaggi, nelle bastis. Le bastis sono dei posti come degli slum. In questi posti succedevano molte cose, c'erano i media e molte femministe hanno preso parola nei media, hanno appunto parlato di questi argomenti, e dunque era già un argomento un po' sviluppato pubblicamente. Ma sai, in Delhi c'era sempre gente che diceva: le donne non si vestono come si deve, è per questo che le molestie succedono, sempre la colpa alle donne. Sì, appunto, la domanda, e mi ricordo che l'anno scorso avevano provato a mettere un coprifuoco per le donne. Un coprifuoco dopo le 8 di sera. Sì, perché c'erano alcuni che hanno detto: gli stupri succedono perché le donne escono di notte, o gli stupri succedono perché le donne vanno nei bar o perché vanno nelle discoteche o nei bar, insomma. Cose così. And in Haryana, the village council heads the cup panchayat. Anche in Haryana hanno detto che era perché questi jaolim mangiavano. Chow mein, it's like eating spice. Mangiavano troppe spezie. Stupid things like that. Cose stupide. Things in the public already, senza logiche. Dunque c'erano un sacco di cose pubbliche, molto di più che negli ultimi anni, discussione su molestie sessuali, sulle aggressioni sessuali, si parla di sicurezza nei luoghi pubblici. E mi ricordo che stavamo facendo questa grande manifestazione con il collettivo cittadino contro appunto le aggressioni sessuali. And in a public place, we era il 15 dicembre in un luogo pubblico ed eravamo una ventina a fare questo tipo di cose, mostrare una donna che cammina con una gonna corta in strada e gli uomini arrivano per aggredirla e chiediamo alla gente perché questo succede e poi diciamo anche il perché, non perché la donna è vestita così ma perché sono gli uomini a venire ad aggredirla, perché il loro modo di pensare è che non va, e che si tratta di una violenza maschile, della loro violenza. C'erano discorsi come le donne che stanno nel nord-est, che hanno un'apparenza più orientale in Delhi because they look different. E loro le molestano più spesso a Delhi perché sembrano diverse, la loro pelle, i loro capelli, i vestiti sono diversi e coprono di meno del resto rispetto al resto dell'India, non coprono la testa e non mettono vestiti molto ampi. So the women in the northeast, if they walk around, comunque si vestono come vogliono, e queste donne del nord sono più libere che nel resto dell'India, e queste donne da qualunque parte vadano sono più spesso vittime di abusi. E abbiamo anche parlato di come le donne che sembrano diverse sono più spesso molestate in Delhi, and also how women who don't traditionally look like fit into the feminine, e anche le donne che non hanno l'aspetto propriamente femminile, come le donne con i capelli corti o con gli short o i pantaloni, sono anche molestate a Delhi. Dunque stavamo parlando di tutto questo, anche che succede, appunto, cosa succede quando un gruppo di uomini inizia a fare brutti scherzi o battute, schifosi commenti sessisti, e dunque c'era un grande confronto con la gente su questi argomenti. To have a protest. E la polizia è arrivata e ci ha detto che non era permesso tenere una manifestazione lì. And we said that, look, as a police, if you're a police officer, it's your duty to stop sexual. E abbiamo risposto: guarda, come poliziotto è il tuo compito di fermare le aggressioni sessuali, cosa che non fai. E dunque, se non lo fai, e fino a che non lo farai, non ci muoveremo qui da qui, qualsiasi siano gli ordini che vuoi darci. Ma la cosa è che a Delhi le manifestazioni non sono permesse. E dunque, se fai una protesta contro le violenze, la polizia arriva e ti dice di andare via. Ma non fermeranno i tipi che ti molestano? E questa è una cosa. Really difficult for us. È una cosa molto difficile per noi. It was interesting that this is the first time in the history. Il 16 dicembre questo stupro è successo ed è interessante che per la prima volta a Delhi e anche per la prima volta in India c'erano altre persone scese in piazza per protestare. We all tried to figure out why is it that, you know, they did not speak up. E ci siamo chieste, ma perché non c'è stata nessuna reazione quando è successo lo stupro di Sorar? Perché nessuno ha parlato quando una donna è stata stuprata e buttata sotto il treno? I mean, those were also horrific. Each was all of the rapes that have happened so far. Tutti gli stupri sono orribili, quelli di Ariana erano orribili, perché la gente non ha protestato? Perché? E perché dopo il 16 dicembre la gente ha sentito la necessità di protestare? È una cosa che lei faceva e che tutte facciamo nel quotidiano. Stava aspettando l'autobus, poi stava nell'autobus e l'hanno stuprata. Brutal kind of rape. Ed era uno dei più brutti stupri. There are so many other brutal rapes, but nobody's ever spoken out. E c'erano stati altri brutti stupri, ma nessuno ne aveva parlato. Inoltre, la donna proveniva da una buona famiglia, insomma. In the beginning, nobody knew which class of family she is. All'inizio, all'inizio nessuno sapeva da quale classe proveniva. But the fact was that she was doing things that people do normally. Ma il fatto era che stava facendo qualcosa che la gente fa normalmente, come vai a vedere, vedi un film, prendi l'autobus per tornare. Stava aspettando con un suo amico, cosa che tutti fanno, soprattutto gli studenti. Erano le 9 di sera, non erano le 11, mezzanotte, l'una di notte, erano le 9. Dunque la gente ha pensato, potevo essere io. E anche il modo in cui è stato raccontato, spiegato. I couldn't even read, honestly speaking, for me personally, when I just saw the topic. Il modo in cui è stato raccontato, subito i giornali hanno preso l'accaduto. Non potevo onestamente neanche leggere tutto. Quando vedevo l'argomento non potevo continuare a leggere. Topic, I just couldn't read it fully. I dettagli, appunto, di una cosa orribile. I just saw the topic and I was like, okay, this is too horrific for me to read and know the details. And so the first one day, you know, 16th happened, and the next day there was the students' union from. Dunque, questo è successo il 16 dicembre e il giorno dopo il sindacato degli studenti dell'Università Nehru ha chiamato ad una grande manifestazione. Ricordati che a Delhi le manifestazioni sono vietate, a parte una piccola zona. 200 meter space around Jantar Mantar, but they said that di 100 metri quadri di piazza. So we blocked a huge intersection. Ma hanno detto, questa volta è troppo, e abbiamo bloccato uno dei più importanti incroci stradali della città, tutti vestiti di nero e seduti per strada, e uno è un gruppo gridava e urlava slogan. Dentro questo grande gruppo c'erano forse due o tre gruppi di donne e ci dicevamo, non è così che abbiamo l'abitudine di protestare, è troppo aggressivo, è troppo chiedere giustizia e non parlare di tante e non parlare di tante altre cose. Dunque, in mezzo a tutto questo caos di studenti in nero che giravano in cerchio, una ventina di noi ci siamo sedute con i nostri striscioni e le braccia incrociate. E il blocco è andato per ore e ore e abbiamo iniziato a pensare che dovevamo fare qualcosa di pubblico. E la sera stessa c'era questo grande presidio a India Gate. Non so come sono andate le cose, ma quando siamo arrivate a India Gate c'erano già 5 o 10 gruppi. Minimum 5 or 10. So minimo, sì, students from JNU. One corner there was feminists. Ad un angolo c'erano gli studenti dell'università, in un altro angolo le femministe. E sfortunatamente ad un piccolo angolo c'era anche la destra che gridava mandate via Sheila Dixit e lasciate Sonia Gandhi protestare. Sheila Dixit and let Sonia Gandhi resign and all those things because they were least bothered. Lasciate, scusate, Sonia Gandhi portare a termine il suo programma. You know, sexual assault. Come? Ci siamo perse. No, non siamo perse. Continua dopo Sonia Gandhi. They were not saying that let's get justice for the woman. Perché non erano lì per protestare contro le violenze sessuali, non erano lì per le donne, ma appunto era un gruppo venuto per contestare il governo dal momento che loro, la destra, sta all'opposizione. Different things happening in different corners. One came with like c'era anche uno striscione che diceva qualcosa come impicchiamo gli stupratori, castrazione, insomma c'erano cose diverse in diversi punti. Alcuni avevano thousands of people, but there were at least from alcuni avevano come delle torce, camminavano in cerchio, insomma a Delhi Gate c'erano migliaia di persone che provenivano da diversi 15 different groups, da 10 o 15 different gruppi di diverse aree geografiche. For the first time there was media when there was a protest happening. E per la prima volta c'erano i media per una protesta di questo genere. Somehow I think we have to talk about the fact that media played a role in getting. Comunque dobbiamo anche dire, riconoscere che i media hanno avuto il loro ruolo nel spingere la gente in strada. Un giornale ha chiamato questa ragazza Nirbhaya perché Nirbhaya significa senza paura, perché siccome non potevano sapere il nome della vittima, un giornale l'ha chiamata Nirbhaya, un altro Damini, un altro con un altro pseudonimo. Ogni giornale aveva un nome per lei e chiamandola a fare qualcosa, appunto chiamavano la gente a fare qualcosa per Damani, lei è la figlia dell'India, e hanno scritto cose tipo facciamo qualcosa tutti insieme. Dunque dopo then after that, you know, there were just a series of protests all over Delhi. Dunque dopo sono scoppiate manifestazioni in tutta Delhi. Prima a Delhi Gate con 1000 persone, il giorno dopo 7 o 8 mila persone, una rete grande, enorme di femministe e organizzazioni femministe come LDA, che è una vecchia organizzazione di femministe democratiche, o l'associazione delle donne indiane. Questi gruppi sono venuti in migliaia, è stata la più grande manifestazione che ho mai visto. Era da Rusti, un quartiere evidentemente, fino a India Gate. E così si finisce la prima parte dell'intervista. Meno male. Mandiamo un po' di musica. Sì. प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, पूछ नहीं मैं किसी के सर का नाम, झधार में नैया पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, थामी चली थी कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरों से किंचड़िया हूं मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में है रत समाई, छुड़े नहीं तो रस्मों पे दौलत ये काहे बाहे, हम तो प्यार के ख्वाहिश में रिश्ते बुने, वो रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी हिस्सा सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का नाम, झधार में नैया पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, thank you. Allora sì, diciamo abbiamo perso un pezzo di audio, adesso proviamo a riconnetterci con l'intervista a Divya. Stiamo parlando appunto delle mobilitazioni in India seguite a alcuni fatti di stupro avvenuti appunto in India, e la compagna ci sta raccontando. Proviamo a vedere che punto becchiamo. Where there were at least 300 men, bureaucracy and the police who were implicated in the trafficking and sexual exploitation of a young girl, like 14 or 15 year old, and she identified. Niente, vabbè, l'abbiamo perso, ma poiché abbiamo una base, diciamo, di traduzione scritta, ci scuserete, la sua voce non la sentirete, ma insomma. Appunto, proseguiamo a raccontarvi delle manifestazioni. Appunto parlavamo del ruolo della stampa, che ha fomentato, insomma, diciamo, in qualche modo invitato le persone a uscire fuori per strada, trattando questi fatti di cronaca evidentemente con una attenzione diversa dal solito. Quindi lei individua anche nella stampa un ruolo appunto abbastanza importante per questo, e racconta appunto di queste enormi manifestazioni inaspettate sia per lei che per molte altre manifestazioni, che coprivano 2-3 chilometri di strada piene di gente, e chiaramente il governo indiano, essendo, come avete sentito, anche vietate le manifestazioni, non era pronto a questo tipo di mobilitazione che è avvenuta quel giorno, appunto il giorno dopo lo stupro, il 16-17 dicembre. Siamo state lì, forse, dice, dalle 9 di mattina fino alle 2 del pomeriggio, e la gente arrivava, gruppi che andavano e venivano, insomma migliaia di persone, e la protesta è andata anche un po' fuori controllo, perché veramente dentro c'era di tutto di più, anche uomini aggressivi. Devo dirti questo, che abbiamo avuto uomini dentro la folla, uomini che toccavano le donne. Una donna giornalista è stata aggredita da un gruppo di uomini, e dal primo dicembre c'era un caos nelle manifestazioni. Non era, diciamo, propriamente strettamente politica di donne, non era politica femminista, era solo gente che saltava dentro l'onda della protesta, e appunto c'era qualcuno che chiedeva le dimissioni del governo, altri gridavano slogan come stuprare la figlia del ministro potrebbe aiutare a risolvere il problema. Insomma, qualsiasi cosa passava per la mente alle persone veniva portata nella protesta, quindi difficile anche per loro, diciamo, abitarla. Dopo tutto quello che è successo, c'era così tanta gente per strada che il governo ha chiamato questa, appunto, polizia di destra con gli idranti, che sono stati sparati, appunto, i cannoni d'acqua. Era inverno, appunto parliamo di dicembre, c'erano 0 gradi, hanno picchiato le persone, i manifestanti, in modo brutale, e questo ha fatto molto arrabbiare praticamente tutta Delhi. Dopo questi incidenti, infatti, il governo ha messo il coprifuoco in modo che il centro della città fosse controllato dalla polizia, e appunto era difficile fare qualsiasi cosa in città. Ma la cosa che ho trovato interessante è che c'era questa enorme protesta a Delhi Gate tutti i giorni. Ma la cosa interessante è che ogni quartiere poi aveva le sue iniziative. Per esempio, vicino a casa mia c'è un quartiere dove la gente ha deciso di mettersi insieme per rendere questo quartiere più sicuro per le donne. Ci sono periferie in cui 2.000 o 3.000 persone si sono riunite, magari al mercato, hanno fatto delle manifestazioni spontanee parlando della responsabilità di ognuno nelle periferie, e non soltanto appunto di quelli che vivono nei quartieri periferici, ma anche di quelli che vengono lì per lavorare, per vendere le verdure, per comprare il gas, per fare le pulizie. E per noi era importante, era bello sapere che non era una cosa di elite, elitista, perché all'inizio ho anche pensato che poteva essere una cosa molto elitaria, manifestazioni con candele nello stile che possiamo immaginare, ma vedere che c'era una certa consapevolezza consapevolezza delle cose ci ha fatto bene. In un'altra occasione ci siamo ritrovate in un quartiere con 500 o 1000 persone in una grande strada ed era tutta gente che viveva lì, in quel quartiere. Non era un'iniziativa femminista, ma solo gente che protestava e la gente ha capito. All'inizio gridavano cose orribili, poi qualcuna di noi ha preso il megafono, ha detto adesso ascoltatemi, ed era bello vedere che c'era la possibilità di parlare e un pubblico, anche ad un pubblico molto diverso dal solito. Era la prima volta a Delhi, ma anche in India. Era molto interessante sapere che in Kerala la gente protestava, ma per i fatti di Delhi, ma anche in Bangladesh, in Pakistan, e gente che mandava messaggi di solidarietà. Era chiaro che dopo questo stupro la gente ha cominciato a parlare, chi è d'accordo, chi no, che se, sia che tu sia femminista o meno, il fatto è che nella strada tutti ne hanno parlato. Avevano un'opinione, insomma, a questo proposito, c'erano discussioni, dibattiti, non c'era più il silenzio, come appunto se non fosse successo niente nella nostra città, come se questo tipo di cose succedesse solo in stati come l'Ariano o in altri stati. E appunto all'interno di queste grandi mobilitazioni ci sono anche gruppi non femministi, gruppi misti. Talvolta racconta abbiamo problemi con questi gruppi, ma in ogni caso questi gruppi si fanno sentire, quindi in qualche modo spingono anche le autorità a fare qualcosa. Dopo questa ondata il movimento non si è fermato, sempre sono successe cose, tutti i giorni c'erano delle mobilitazioni, manifestazioni, e quando la ragazza è morta c'è stato proprio il coprifuoco a Delhi, il centro è stato chiuso, niente macchine, niente autobus. Anche nella notte di Capodanno, come femministe, abbiamo deciso che non c'era niente da festeggiare in queste condizioni, abbiamo raggiunto il posto dove è avvenuto lo stupro e fatto una Take Back the Night, una manifestazione notturna, questa volta non solo con slogan, ma anche per ricordare tutte le donne uccise, e sono molte a Delhi in questo periodo. Abbiamo cantato canzoni di solidarietà, canzoni contro le violenze, ed era bello perché la gente doveva passare lì per andare al bar o a una festa, insomma si fermavano. Hanno cantato con noi molti dei passanti, da 50 siamo diventate 100 e abbiamo preso a camminare e centinaia di persone ci hanno seguito. Insomma, la strada alla fine è stata bloccata, questo appunto è il racconto di Capodanno a Delhi, fino all'1:30 della notte, ed era una cosa molto forte, molto intensa. Un'altra cosa interessante è che il governo è stato un po' più attivo del solito, ha riaperto tutti i casi di violenza sessuale che sono stati chiusi, e questo ha fatto sì che in diversi stati il dibattito fosse riaperto. इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था खुश रखना बहुत ही खूब है लेकिन सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है लेकिन खुशी थोड़ी तू अपने खुशी थोड़ी तू अपने को भी दे पाती तो अच्छा था उसे ना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था इरादे कर बुलंद दुखों को मान किस्मत हार कर रहने से क्या होगा दुखों को मान किस्मत हार कर रहने से क्या होगा तो आंसू पोंछ कर अब आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था तू सहना छोड़ कर कहना शुरू करती तो अच्छा था इरादे कर बुलंद ये पीला रंग लब सूखे सदा चेहरे पे मायूसी. E allora allora continuiamo questa intervista alla nostra compagna di Delhi. La domanda successiva che è stata fatta è che effetto ha avuto queste manifestazioni, questi eventi sulle donne? E dunque, a parte la reazione generale del governo che ha raccontato, poi pensi che qualcosa è cambiato per le donne, tipo se si sentono più forti per reagire nei spazi pubblici? This is a bit mixed for me, because I felt that this is the moment for women to say that enough is enough, and that sono un po' moderata su questa cosa, perché sento che è il momento per le donne di dire enough enough, troppo è troppo. No matter what happens, we will be out in the night. Di che cosa succede, saremo fuori nelle notte e prenderemo lo spazio. Ma la cosa che vedo è che dopo questo stupro c'è più paura. Ci sono tante donne che seguono corsi di autodifesa, ci sono i media che riportano in considerazione altri casi come quello, e questo ha aggiunto tensioni, isteria generale. E ci sono molte donne che hanno smesso di venire a Delhi, per esempio per studiare all'università o per lavoro, perché Delhi è una città orribile, non andiamo lì perché ci sono... E dunque ci sono, non andiamo, e ci sono più limiti e coprifuoco per le donne. Dunque, sai, ci sono due cose: da un lato più controllo, e dall'altro questa cosa che qualunque cosa succede prendiamo lo spazio. Per esempio, nel 2004 le femministe hanno proposto una Take Back the Night, e tutte dicevano: ma non è possibile, è troppo buio, troppo pericoloso, non ci sono. Sono i mezzi pubblici, nessuna vera, e l'abbiamo cancellato. E questa volta era: lo facciamo, dobbiamo prendere lo spazio, e lo facciamo di notte e non di mattina, sarà dopo le 10 di notte. E per me era molto potente il fatto che l'abbiamo deciso come femministe, che giovani donne e studentesse hanno ritenuto necessario di partecipare tutto dopo questa vicenda. And they are not feminist at all. They are just women who do designing. E poi gli ho chiesto se ci sono altre donne che hanno hanno raggiunto il movimento, se il fatto che c'è stato come una visibilità anche delle femministe organizzate come gruppi autonomi, se altre donne sono venute. E lei dunque parla di queste donne. Somebody studying for hanno public deciso administration. Di fare qualcosa e hanno formato e hanno formato questo piccolo gruppo, un piccolo gruppo di 8 donne. Non sono femministe per niente, sono donne che lavorano perché una era disegnatrice, un'altra sta nell'amministrazione, una è tornata a Delhi dopo l'università. Erano libere e hanno deciso di fare attività in diverse parti di Delhi e andare a parlare con la gente, farla uscire, e dunque molta gente così è uscita prendendo la parola e mettendosi insieme. And they found a space that we have to speak up, we have to do something different, and so a lot of people came together. Okay. Actually, yes, because this group of 8 women which I was giving an... E dunque, volevo un'altra domanda che gli faccio è di sapere, ma forse era un po' presto a febbraio, se gli eventi, alcune donne si sono avvicinate dei gruppi, siamo sempre sull'argomento, scusate. An example, they also found us on internet. Ci hanno trovato su internet perché noi abbiamo pensato che loro fanno qualcosa per il... Ah sì, poi noi abbiamo pensato, va bene, loro vengono, faranno qualcosa per il 14 febbraio, poi scomparirono. Invece no, proprio ieri abbiamo fatto una riunione insieme. As in campaign, and then they came, and now we had a meeting with them yesterday. And in the beginning, ancora vogliono fare un sacco di cose, training, disegni per i volantini. Ci diciamo, ok, molto interessante questi. Non abbiamo mai lavorato con loro. We want to reach these different groups, and I'm free to do this. I want to design things for feminist groups. If you want anything, so we're like, okay, this is interesting. We've never worked with them. For us, even getting in touch with the e anche con altri gruppi di quali ti ho parlato, questi gruppi sono adesso collegati con noi. È molto interessante perché per la prima volta non siamo solo noi le femministe a dire ok, domani protestiamo, e siamo 15 e poi ci ritroviamo 15 donne e non ci sono i media e nessuno ci ascolta. We talked to them and we found questa volta c'erano 500 persone e la strada era piena that for the first time it's not a feminist thing. E dunque gli diamo dei poster, la parola al megafono. È molto interessante per fare le cose con questi gruppi. Okay, protest tomorrow and there are 15 women with and there is no media and there is nobody who listens to you. Mm-hmm. And this time it was like 500 people and 600 people and the whole street is full of people. Mm-hmm. So we were giving them our posters and saying, okay, also include this and talk about this and give us the mic for 5 minutes or 10 minutes. And so it was really interesting that we are now connected to these different groups, like many journalists. Poi lei adesso parla dei giornalisti. Now say that, oh, what are you doing for 8th March? Mm-hmm. You know, adesso now, i giornalisti and, chiedono che cosa state preparando per l'8 marzo. Sai, questi giornalisti che vengono e ti fanno tante domande stupide, tipo, pensate che qualcosa cambierà? E perché siete sedute qua? E gli rispondevamo, sapete che quando vi abbiamo chiesto di coprire eventi non l'avete mai fatto? È interessante vedere nuova gente che si connette tra loro, artisti, performers, come questa donna, Maicha, una donna che fa teatro e ha fatto una performance proprio sullo stupro di Delhi. E gli chiedono se tutti i tipi di donne che sono tutti i tipi di donne che partecipano alle manifestazioni. Sì, questa è una domanda delicata. I've noticed personally that it's actually younger women who perché are ho notato us, like, che era che sono più le donne giovani che vengono, le studentesse, ma non sono tutte le donne, non sono le quarantenni, le cinquantenni che vengono. Alcune hanno detto che volevano fare delle cose, ma ho notato difficile mantenere il contatto con loro. Anche nelle manifestazioni c'erano molto più donne giovani. It was not so much. There were a few older women, but not so many. Le più vecchie hanno mostrato interesse, ma per me è più una questione di capire come avere contatti con le casalinghe e con le donne che lavorano. È una sfida per le femministe da molto tempo e lo resta. All shared interest, but it's for me it's really difficult on how to engage with older women who are housewives or who work in the corporate sector. Mm-hmm. Like how to make that connection. It's been a challenge for feminist groups forever, mm-hmm. and it still is. Mm-hmm. Khamoosh nahi rehna hai. E allora torniamo in diretta. Eh sì, dunque questo era Divya che raccontava un po' le manifestazioni. Ci ha raccontato una cosa, anche un file che si è persa, non lo so. Mannaggia, vabbè. Vabbè, per esempio, boh, forse non è molto molto interessante, forse per questo l'ho tagliato. C'è tipo che in Kerala la gente protestava per i stupri di Delhi, e che lì le donne hanno iniziato a dire: ma è lì, qui, che comunque da mesi siamo davanti a un caso in cui ci sono 200 politici che sono coinvolti in traffic di donne, in prostituzione e in stupri di donne delle caste basse. No. Allora forse adesso andiamo a parlare di questa cosa là. Cioè, eh sì, perché poi lei raccontando che era una cosa anche molto mediatica, forse poi le persone si sono legate alle manifestazioni di Delhi, ma giustamente il passaggio è dire: ma qui intorno a noi è uguale, cioè in tutti i luoghi ai noi del mondo. Allora passiamo a Divya oggi, che ci ha raccontato oggi. Mandiamo questo aggiornamento. Come facciamo con la traduzione? Vai tu. Sì. Ok, bravissimo. The last few months of activism, but there are many things which have also not changed. Allora, ci sono le cose che hanno cambiato dopo questi mesi di manifestazione, ma anche molte non hanno cambiato. Which is very, very disappointing. È una cosa molto deludente. Because the specific demands through the protests in the last few months that were that the police and justice system should have should follow its protocol. That perché comunque una delle grandi domande che è stata fatta dalla piazza è che la polizia e il governo dovrebbe mettere in campo delle procedure che sono normali. If a woman approaches the police and says that I've been raped, that they se una donna va dalla polizia per denunciare uno stupro che ha vissuto, register an FIR without questioning her, without sending her back home, but we find out that it's still happening now. E loro dovrebbero non cacciarla, dovrebbero sentirla, non fargli delle domande, non rimandarla a casa, non fargli dare il senso di colpa. But there's more and more mobilization and e questo non succede. Ma dobbiamo dire che ci sono di più e di più di mobilizzazioni. And there are more people interested in speaking out against violence against women. E ci sono più gente che continua a parlare di violenza sulle donne. So I want to share that after the first few months of protests there was another series of rapes that happened. Voglio condividere il fatto che dopo questi mesi ci sono stati altri stupri perpetrati. But this time it was with little girls 5 years, 4 years, 3 years. E questa volta era più su delle ragazze di 4 anni, 5 anni, 3 anni. Like really small girls, and again it was brutal rapes. E dunque piccole ragazze, e anche questa volta era dei stupri di gruppo. So after that, unfortunately, what happened was that it was mostly political parties which came out and said, oh, we have to change the government. We e per sfortuna, no, sfortunatamente sono stati più i partiti politici a prendere i casi e a dire: ah, let's dobbiamo cambiare il governo. We have to change the police. Dobbiamo cambiare la polizia. But nobody talked about the issue of violence against women. Ma nessuno ha preso veramente l'argomento delle violenze contro le donne. What was the status of women in our communities? Come lo stato lo status delle donne nella nostra comunità. And none of the slogans or messages were anti-patriarchy. E non abbiamo sentito nessuno slogan contro il patriarcato. They were all against, okay, let's remove the government. So if it's the opposition party, solo su cambiare il governo. Party was using that to gain popularity for itself. E tutti i partiti hanno preso questo per fare crescere la loro popolarità. So it was really sad for the feminists. Era molto triste per noi femministe. And in the beginning, you know, everybody was together protesting, but I think at around April most of the women's groups decided that we will not join other protests. E all'inizio andavamo alle protestazioni e poi piano piano abbiamo deciso di non andare più. because they were doing it for the messaging was all anti-feminist, many of it. Molti messaggi erano antifemministi. Like, women should stop coming out, or per esempio che le donne devono fermare o smettere di andare fuori, di uscire. Let's protect the honor of women. So, dobbiamo proteggere l'onore delle donne. So we didn't really want to go with that kind of thing. Allora avevamo deciso di non più andare. So there've been a lot of efforts which are still going on to speak to the public. E dunque continuiamo solo a andare a parlare con il pubblico. To speak to the government, anche per andare a parlare con il governo. The best thing is that there's a group of lawyers and other. Per esempio, c'è stato una cosa bella, interessante, che un gruppo di avvocati. Attivisti to change laws, che stanno provando a cambiare le leggi. A couple of other campaign groups. So one group is called Citizens Collective Against Rape. Io faccio parte, seguo le attività di un gruppo che si chiama Cittadini contro le violenze. So we meet very often, and every month we try to have one small activity in a public place. E ci incontriamo abbastanza spesso e proviamo a fare un'iniziativa nello spazio pubblico ogni mese. It could be like it's like a street theater. It's a street spectacle. It's not even street theater. Noi facciamo per esempio del teatro di strada. It's about women's right to be out in the street. A proposito del diritto delle donne di essere fuori nella strada. To feel free. Di sentirsi libera. To sit down, to stroll, to lie on the grass. Che le donne possono sedersi, sdraiarsi, essere nella strada. Her name is Maya Rao. E poi c'è questa tipa che ha fatto Maya, vabbè, che è una tipa che fa teatro, che ha fatto dei pezzi di teatro. Written a piece called The Walk. Che ha fatto un pezzo che si chiama Il Camino, The Walk. And she wrote it after December 16. L'ha scritto dopo il 16 dicembre. I have a right to walk. E significa: io ho il diritto di camminare, sit, to lie down, di sedermi, di sdraiarmi, to just be at two, di essere solo. 2 o'clock, at 1 o'clock, at 3 in the morning, but a l'una, alle due, alle tre di notte. That's my right as a woman. Questo è il mio diritto come donna, in the streets of Delhi, come donna, di andare nelle strade di Delhi. And she talks about consent. E parla anche del consenso. Consenso. Consentimento. Consenso. What does consent mean? Che significa essere consensuale. Consenzienti. So it's a very interesting piece. So we try to do that in English and Hindi in the streets of Delhi. E dunque è molto interessante come pezzo, lo proviamo a farlo sia in inglese che in Hindi nelle strade di Delhi. To get more people to start talking about the issue. E per fare che la gente continui a parlare di questo argomento. And one thing we've noticed is that people are more interested in the issue. Earlier people would ignore us or make fun of, you know, women who protest on violence against women, but now there are more people joining in. E la cosa che ho notato è che la gente, se c'è più gente che viene a parlare con noi femministe. So that's one shift that I see. Okay. But è una cosa che vedo. But I also see that there's a lot of fear that's there in. There's also a lot of fear in people's minds because the newspaper, the media, they go around asking people. So, you know, will you go study in Delhi now that it's the rape capital of India? Will you work? E la cosa che vedo anche è che c'è anche forse molto paura, e la paura che cresce perché i media stanno sempre a dire: ah, ma sei sicura che vuoi andare a Delhi, questa capitale dello stupro? Non è possibile, non è sicuro per le donne di vivere lì. So all that kind of nonsense goes on. Okay. E questo continua. Divya, I will thank you for this. Yes, thank you so much. I hope we will speak again, and that the situation continue, and the fight against violence against women continue, and no more rapes, and no more violence. More safety for women everywhere, and women solidarity everywhere. Thank you. Thank you very much. Lovely speaking to you too. Thank you. E dunque sì, libertà per tutte le donne e libertà di andare dove vogliamo e solidarietà tra tutte le donne. Questo era alla fine. E dobbiamo concludere questa mini primer di oggi, siamo esattamente alle 21:15. Io volevo fare due piccole cose sulle musiche, sono le musiche che comunque sono state scritte da gruppi di donne femministe, tutte queste canzoni parlano di non rimanere zitte, di alzare la testa e di gridare contro le violenze. E l'altra cosa, bah, questo è un po' una cosa che trovo interessante perché ci ritroviamo molto bene nel discorso del ruolo dei media, della recuperazione politica delle violenze, della strumentalizzazione. Tutto questo, la cosa che a me mi tocca è come continuano e come comunque hanno come pratica politica di andare nei quartieri e di parlare con la gente. Eh sì, infatti, faticoso perché da come racconta, insomma, chiaramente. Sì, no, ma è incredibile di pensare che vai a una manifestazione e senti la gente che grida andiamo a supare la figlia del primo ministro per, c'è per cambiare le cose, ma come deve essere, cioè, vabbè. Da lì bisogna ripartire. Da lì diversa. Grazie dell'ascolto e martedì continua. Sì.